Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di banche in apertura, ma anche e soprattutto di banche spagnole, perché oggi sulla Spagna, dalla Spagna sono arrivate importanti notizie. Dovrebbero servire circa 37 miliardi per ricapitalizzare le banche spagnole, soprattutto il grosso se lo prenderà la banca che si chiama Bankia, che è sostanzialmente l'agglomerato di casse di risparmio locali spagnole, tecnicamente quasi fallita perché ha concesso molti prestiti e mutui per un mercato che poi è crollato come valori immobiliari. La dico un po' brevemente, ma insomma questo è 18 miliardi a Bankia, 9 miliardi alla banca della Catalunya, Catalunya Bank, e 4 miliardi e mezzo al Banco di Valencia. Tagli confermati per 6.000 dipendenti e il 40% delle filiali per il gruppo Bankia. Questo è il fronte europeo e spagnolo. Chiaramente vi sarà oggi nella puntata anche il fronte italiano e piove sul bagnato, è quasi ovvio dirlo, perché all'IVA di Taranto, oltre alle difficoltà e al dramma dovuto alla chiusura degli impianti, vedremo domani cosa deciderà il governo. C'è un incontro tra il governo, le parti sociali, i sindacati e l'azienda. Si va verso l'ipotesi, è un commissariamento dell'IVA, un decreto d'urgenza, però come vi ha raccontato il nostro speciale pochi minuti fa e i nostri GR durante l'intera giornata, si è abbattuta una tromba d'aria sullo stabilimento dell'IVA di Taranto, 20 feriti, un morto, poi morti anche prima al tempo a Bari. Insomma, situazione che adesso sembra leggermente più sotto controllo. Torneremo a fare un collegamento alle 18.05 con la nostra inviata lì a Taranto, Raffaella Calandra. Ancora, per quello che riguarda i temi, l'Argentina di nuovo fa paura, perché ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, ma insomma le agenzie di rating, quelle che danno il voto ai debiti dei paesi oltre che dei privati, l'agenzia di rating Fitch ha tagliato il voto all'Argentina di 5 livelli. Da B a doppia C, e praticamente ritiene probabile un fallimento, un default dell'Argentina sui pagamenti. Ricorderete la vicenda, l'Argentina è stata condannata la settimana scorsa da un tribunale di New York a pagare entro il prossimo 15 dicembre 1 miliardo e 300 milioni di dollari ad alcuni fondi speculativi americani che non avevano accettato a suo tempo l'accordo, la proposta, diciamo, di rimborso parziale, parzialissima, come conseguenza del fallimento dell'Argentina nel 2001. Al suo tempo la proposta riguardava sostanzialmente, veniva ridato meno del 35% del capitale prestato a suo tempo all'Argentina. In realtà non c'è solo il pagamento, pur di una cifra alta, 1 miliardo e 300 milioni di dollari, c'è un paese che è tornato ad avere molte difficoltà. Perché da un lato l'Argentina non è mai più tornata a finanziarsi realmente sui mercati, ma dall'altro il PIL argentino, che è cresciuto molto nel periodo 2003-2007 intorno all'8-9% annuo, ha rallentato ad un più modesto tasso del 2-3%. Il gettito fiscale rallenta molto più velocemente di quanto invece non cali la spesa pubblica, e l'inflazione viene indicata ufficialmente al 25%, in realtà sembra essere molto molto più alta. Anche di questo parleremo, quindi Ilva, banche spagnole e anche le banche straniere in Italia. Avremo infatti il presidente delle banche straniere in Italia, il nostro ospite a Focus Economia, e poi la vicenda anche dell'Argentina. Rapidamente le altre notizie a partire dai mercati, che avranno come sempre il loro approfondimento. Meno 0,60% Milano, meno 0,07 Francoforte, più 0,09 Parigi, poco mossi, e Londra meno 0,19, l'America 0,05%. I mercati sono piatti in questa settimana, devo dire, movimenti molto, molto contenuti. Euro a quota 1,21,16, bene Pirelli più 1,90, Autogrill più 1,60, Tod's più 1,30, Mediolanum più 0,90, Ferragamo e Telecom Italia più 0,80. Male e anche in maniera decisa il Banco Popolare meno 5,20, il Monte dei Paschi meno 2,80, Unicredit meno 2,40, Fiat Industrial meno 1,90, Azimut meno 1,70, ST Microelectronics meno 1,5, l'1,30% europea della Popolare Emilia Romagna, ma anche Intesa San Paolo, l'Automatica meno 1,20 come Buzzi Unicem. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Facebook, come sempre, per chi volesse intervenire via computer. Chiede sull'euro, no, l'euro è 1,29,17, 1,29,16 nei confronti del dollaro, spero di non aver detto un'imprecisione, comunque 1,29,17. Andiamo avanti con le altre notizie. Il petrolio resta sui minimi della settimana, 87,13 dollari, l'oro in calo a 1738, insomma sono poco mossi questi mercati. Dell'Argentina abbiamo già detto, alcuni di voi mi chiedono se le banche vanno male per via degli spread. No, nel senso che lo spread italiano dopo l'asta del tesoro italiana, che è andata tutto sommato bene, anzi molto bene per i bot a sei mesi, lo spread è calato sotto i 330 punti a 326, anche quello spagnolo è calato sotto i 400 punti per la prima volta dal 25 ottobre, è sceso a 397 punti, quindi dallo spread praticamente... Non ci sono tensioni. Ancora altre notizie riguardano appunto l'asta dei bot italiani. È una buona notizia, non lo dico anche perché un ascoltatore mi dice: ma le puntate di Focus Economia prima del 2009 erano sempre così depressive? Beh no, adesso ovviamente tutto no, erano anche un po' più allegre, diciamo che più che Focus Economia è la situazione che è diventata meno allegra dall'ottobre del 2008. Abbia pazienza. Tra l'altro voglio dire, poi avremo anche un commento su questo, già ne parlavamo ieri, l'Ocse ha raffreddato ogni entusiasmo natalizio, ammesso che vi fosse, perché ha detto che saremo in recessione netta anche l'anno prossimo, meno 1% e via così, no? Parliamo di cose buone, o meglio di cose belle. L'asta del tesoro, i bot a sei mesi, siamo riusciti a finanziarci con un tasso, cioè offrendo come rendimento, meno dell'1%. È la prima volta dall'aprile del 2010, cresce anche la domanda, e il tasso del BTP a 10 anni, il tasso del BTP a 10 anni è sceso anche per quello che riguarda il nostro indebitamento a 10 anni, è sceso ai minimi dal giugno del 2011 al 4,67%. E quindi bene i rendimenti, vuol dire che calano sia a sei mesi sia a 10 anni. Tornare a giugno del 2011 vuol dire tornare al periodo in cui è iniziato l'intero attacco ai debiti di Spagna e Italia. Allora, visto che piove, che c'è il maltempo, che c'è l'influenza in giro, che l'Ocse ci dice che saremo in recessione anche l'anno prossimo, almeno pigliamoci ste poche buone notizie, importanti comunque, e diamo un po' di campane, vai. Oh, uno festeggia quello che può nella vita, noi festeggiamo che i bot a sei mesi, 7 miliardi e mezzo collocati, sono scesi sotto l'1% di rendimento, ossia il livello, ripeto, più basso dall'aprile del 2010. Fatto tempo a dare le campane che arriva una notizia, vari studi commissionati oggi dal gruppo dei socialisti democratici al Parlamento europeo sostengono che l'Italia sarà in recessione anche nel 2013 con un calo dell'1,5%, e dicono l'unica speranza per l'Italia è l'intervento della Banca Centrale Europea per abbassare i tassi a lungo termine. Io mai avevo sentito parlare di questo gruppo. Dico solo che -1,5% non vorrei che fosse la gara a chi la spara più grossa. Già ieri l'Ocse -1%, ma problemi a rifinanziarsi nel lungo termine. Il 4,67% è ancora un livello alto di rendimento per i BTP, ma non è un livello impossibile, eh? Non è un livello impossibile, per cui dai. Ci mancano solo i socialdemocratici tedeschi. Una nota di servizio, sì, verremo il 14 dicembre in Emilia per una diretta dedicata al terremoto di un anno fa che farà Radio 24, ci sarà anche Focus Economia. Mi chiedete la località, stiamo perfezionando gli ultimi dettagli sulla logistica perché ci sono varie possibilità, stiamo cercando il posto in cui ci sia anche la connessione, la radio deve trasmettere da lì. La connessione più facile ve la comunicheremo a brevissimo anche con il promo. Comunque ha ragione l'ascoltatore, saremo il 14 dicembre anche con Focus Economia in Emilia, in uno degli epicentri del terremoto che purtroppo si verificò lì un anno fa. Un'altra buona notizia, almeno per 250.000 precari, potrebbe essere quella che il governo lavora a una proroga dei contratti in scadenza nella pubblica amministrazione fino al prossimo 31 luglio da inserire nella legge di stabilità. Però attenzione, il capo dipartimento della funzione pubblica Antonio Naddeo, al termine dell'incontro con i sindacati, ha detto la proroga di 6-7 mesi non produce oneri per lo Stato e non è generalizzata. La proroga è può essere fatta solo se l'amministrazione ha ancora i soldi. Se l'amministrazione non ha più i soldi, non ha i soldi, può anche non farla, ma in generale le amministrazioni i fondi li hanno. Il problema è che tanti precari avevano raggiunto il tetto di 36 mesi, non era un problema di soldi ma un problema di tetto massimo raggiunto. E poi sempre il capo dipartimento ha detto che stiamo pensando a una riserva dei posti per i precari nei prossimi concorsi della pubblica amministrazione. La Guardia di Finanza nel frattempo fa verifiche oggi nei confronti di Google Italia per controllare il corretto adempimento degli obblighi fiscali nel nostro paese. Adesso vorrei dare uno spazio non consueto, perché noi raccontiamo ormai da settimane, da mesi, la crisi che gli altri non vedono e gli sprechi della pubblica amministrazione, quindi la crisi di cui altri se ne fregano bellamente. Faccio notare insomma che oggi, per carità, poi le pagherà tutte, ma le auto blu sul quale oggi ha viaggiato il sindaco di Brescia Adriano Paroli tra il 2009 e il 2010 sono state sanzionate per eccesso di velocità 47 volte, altre 38 volte sono state selezionate nel 2011 e adesso Equitalia chiede 21.000 euro di cartelle esattoriali. Le auto blu di Paroli sono state sanzionate perché i tutor hanno rilevato velocità tra i 170 e anche i 200 km all'ora. Alcune volte vi sarebbe stato il vice sindaco Fabio Rolfi. Paroli ha detto che pagherà di tasca sua, quindi non mi sembra un grosso problema, ma invece ci è arrivata una lettera molto bella che vi vorrei leggere, che riprende anche un bell'articolo di oggi di Gramellini sulla Stampa e comunque altri giornali ne hanno parlato. Parliamo di una morte, di una mamma che ha quattro figli, che lascia quattro figli a 34 anni, ma parliamo anche di una solidarietà che non sempre riscontriamo, non sempre riusciamo a raccontare, perché poi fanno più notizia i casi negativi, e invece c'è nella gente comune, non c'è in tanta parte della nostra amministrazione pubblica, ma la catena che si sta creando per questa mamma che è scomparsa, devo dire, fa onore a tutti quanti stanno partecipando, e anche questa, pur nel lutto, nella tragedia, se vogliamo, è una bella notizia. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Allora, era un'eroina come tantissime persone normali, anche Isabella Viola, aveva 34 anni, mamma di quattro figli, ogni mattina si svegliava alle 4, andava al lavoro in via Nocera Umbra, nel quartiere Appio Tuscolano, e era uno di quei volti, insomma, un po' stanchi, che chi prende i mezzi pubblici può vedere ogni mattina, magari se prende anche i mezzi dei pendolari, aggiungo io, li vede pure arrabbiati e incavolati. È morta sulla metropolitana, non si sentiva bene, ha continuato a lavorare, non ha fatto i controlli, è morta per un malore da sola sotto la metro, sulla banchina della stazione Termini, domenica mattina, il 18 novembre, mentre andava a lavorare. Le condizioni si sono aggravate velocemente e lei poco prima aveva chiamato anche il collega per dire arrivo alle 7, in realtà non è mai arrivata. Lei lavorava in un bar, l'aveva trasformato in un piccolo ritrovo della zona, e appunto lavorava anche 14 ore al giorno per gestire questo bar. Ma che cosa è successo nel quartiere? Questo è quello che vogliamo raccontare. Beh, è successo che, come si è saputo di questa morte, tutte le persone che abitavano nel quartiere e frequentavano anche il suo bar si sono messe a raccogliere una colletta per i quattro figli piccoli, piccolissimi, di Isabella Viola. Una cosa molto semplice, una cassetta improvvisata nell'edicola dove c'è scritto aiutiamo i figli di Isabella, e questa colletta sta dando i suoi frutti, perché praticamente stanno raccogliendo i soldi tutti gli abitanti del quartiere, giovani, pensionati, impiegati, una fila per dare il proprio contributo. Allora, vogliamo essere demagogici, ma mandiamoci anche qualche politico a versare il suo contributo, una parte del vitalizio a cui non volete rinunciare, non me ne frega nulla se sono populista. Non è possibile che la solidarietà si registri tra poveri, perché non stiamo parlando, chi conosce Roma, dei Parioli, di un quartiere ricco, solidarietà di questo tipo, e poi dall'altra parte, ogni volta che parliamo degli stipendi, dei vitalizi, della classe politica, c'è qualcuno che ci viene a spiegare che con 7.000 euro al mese nette non si riesce a vivere. Vabbè, ci piace. Chissà quante Isabelle Viola ci sono in questo paese. Non sono chiusi, non sono chiusi. Si svegliano alle 4 di mattina e vanno a lavorare con quattro figli. E fanno anche i figli, pensa un po', senza neanche il quoziente familiare. Dicevo, chissà quante Isabelle ci sono in questo paese, e quanti abitanti di quartiere come quelli di Torvaianica ci sono in questo paese, no? A perché purtroppo, stando da questa parte, a forza di raccontare l'altro paese, uno si dimentica di quello reale, no? Allora, faccio una correzione, avete ragione, il terremoto in Emilia, per carità, abbiamo fatto ore e ore di diretta, non è un anno fa, volevo dire sei mesi fa, ma è sotto Natale che noi vogliamo ricordare, anche per denunciare cose scandalose, i soldi raccolti non ancora utilizzati. Ne avremo delle belle e ne vedremo delle belle a Reggio Emilia il 14 dicembre con Radio 24 in diretta da lì, soldi che la protezione civile non può utilizzare per motivi burocratici, soldi che sono fermi lì, soldi raccolti dai cittadini che non vengono utilizzati in Emilia. Eccolo lì, Fabio che mi scrive: lei sta esagerando, si dimetta. Mi faccia finire la diretta che poi vado su dall'ufficio del personale. Vabbè, cambiamo passo, cambiamo ritmo, cambiamo tema, ma resta la preoccupazione per quello che sta succedendo. Guido Rosa, presidente dell'AIBE, associazione tra le banche estere in Italia, riunisce tutte le banche straniere presenti in questo paese, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, Barclays, buonasera. Buonasera. Vabbè, complimenti perché l'hanno riconfermata. Grazie. Vorrei capire, prima di arrivare all'Italia, quanto preoccupati sono i suoi associati per quello che sta succedendo in Spagna, perché la Spagna oggi ha annunciato che avrà bisogno di 37 miliardi dal fondo salva stati per ricapitalizzare le banche spagnole. Secondo lei, insomma, da quello che lei raccoglie, visto che ha anche come associati banche spagnole presenti in Italia, questo dovrebbe stabilizzare la situazione in Spagna? Sì, questo è l'obiettivo naturalmente di questa cosa. Sappiamo che le banche spagnole sono state molto in crisi per la bolla immobiliare che è scoppiata, che quindi ha creato una serie di difficoltà molto molto rilevanti alle banche spagnole. L'obiettivo di queste misure che vengono dall'Europa è proprio quello di stabilizzare il sistema spagnolo, in modo soprattutto da rimetterlo in condizione di operare correntemente e correttamente, insomma. Speriamo che questo succeda, perché naturalmente tutto il sistema bancario è legato un pochino uno all'altro in Europa, e quindi tutti quanti siamo interessati che questa situazione si stabilizzi, e come e presto. Quindi, ma lei, non ho capito, poi avremo un nuovo stanziamento secondo lei, una nuova richiesta, o a questo punto, siccome lì il grosso problema era Bankia, no? E la maggior parte di questi soldi arrivano a Bankia, quasi 18 miliardi, dovremmo essere tranquilli su quello? Che i soldi arrivino, io penso di sì, però io dalla mia posizione posso solo augurare che questo succeda. Se questo succede nei tempi dovuti, io credo che la situazione si stabilizzerà, per rispondere alla sua domanda. Questo è quello che dovrebbe succedere, sì. Quindi lei diciamo, è cautamente ottimista che la Spagna, tra l'altro voglio dire, non senza sacrifici, 6.000 dipendenti, no, ma appunto, infatti, e 39%, cioè il 40% delle filiali che verranno chiuse. Esattamente, questo è mi ha preceduto, perché poi queste misure finanziarie non sono le sole che vengono e che verranno adottate, ci sarà uno sforbiciamento formidabile degli impiegati e poi una serie di filiali, peraltro noi lo vediamo già, perché alcune di queste banche spagnole sul piano internazionale, le banche spagnole erano molto internazionalizzate in linea generale, se ne stanno andando. D'altro canto, cosa vuole che le dica? Questo purtroppo è il prezzo che viene pagato per una dissennata, in qualche modo difficile, atteggiamento che era stato preso in Spagna, che ha puntato tutto su questa ripresa sull'immobiliare che è scoppiato, e quindi qui naturalmente, peraltro, sono misure che sono indispensabili, senza le quali la Spagna non avrebbe possibilità e il sistema bancario spagnolo non avrebbe possibilità di riprendersi e di ricominciare a lavorare correttamente. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso arriviamo anche alla borsa, però presidente Rosa, allora, prima domanda, oltre alla situazione spagnola, lei me l'ha già chiarita, le banche straniere sono tornate, oltre che a restare in Italia, sono tornate a comprare Italia? Perché oggi abbiamo visto un'ottima asta dei bot a 6 mesi e anche dei BTP a 10 anni, i bot a 6 mesi hanno avuto un tasso che è il più basso dall'aprile del 2010, e anche sui BTP a 10 anni siamo al tasso più basso dal giugno del 2011, da quando è partito l'attacco al debito italiano. I suoi associati? La risposta è sì, nel senso che c'è, rispetto a un anno fa, certamente un atteggiamento più positivo e quindi con maggiore propensione all'acquisto dei titoli di Stato da parte della finanza internazionale in generale e anche delle banche, sia delle banche, come dire, estere in Italia, sia delle banche estere, le case madri all'estero. Questo è un segnale naturalmente assolutamente positivo. Ieri avevamo come nostro ospite il dottor Lavia, che ci ha confermato sostanzialmente questo aspetto. Peraltro, prima di recuperare, prima della crisi, lei sa che l'ammontare dei titoli di Stato detenuti dai non residenti era ben oltre il 50%, oggi siamo scesi al 30%, speriamo di recuperare, ma certamente c'è stata un'inversione di tendenza che è molto positiva, e questo naturalmente si riflette anche in una diminuzione dei tassi e in una leggera riduzione degli spread. Temo però che lo spread non potrà fare grandissima strada fino a quando non si, in senso della diminuzione, naturalmente della riduzione, fino a tanto che non si chiarirà in maniera definitiva la situazione politica italiana per l'anno prossimo. Ma ad oggi c'è un maggiore interesse rispetto ai titoli italiani di Stato, sì. Quindi fino a marzo o 7 marzo, vedremo quando sarà poi la data definitiva, o aprile, le dice lo spread resterà a 320. Secondo me adesso 320, 10 punti più o meno. Quello sì, chi se ne frega. Ecco, in quel range lì. Sostanzialmente la ragione per la quale lo spread non si riduce, e d'altro canto è anche comprensibile, è la incapacità da parte di non solo della comunità finanziaria internazionale, ma anche di noi stessi, di leggere il futuro politico e quindi dell'assetto del governo dopo le elezioni di marzo. Speriamo che tutto vada bene. Ecco, altra domanda, l'atteggiamento a livello europeo e poi anche la Libero, perché insomma non è che dopo l'iniziativa di Mario Draghi, benissimo, che ha detto noi interverremo se ci fosse bisogno, quant'altro, però sulla Grecia si è trovato un accordo così, che adesso deve passare al vaglio dei parlamenti, ma lei... teme che a questo punto tutto torni a fermarsi, perché a marzo non ci sono solo le elezioni in Italia, ci sono anche quelle in Germania. Vabbè, insomma, certo che il problema fondamentale, vede, così come lo vedo, è che negli ultimi tempi la politica in genere, il potere politico nel senso positivo, ha un pochino abbandonato la propria capacità di governare l'economia e l'ha affidata a tutta una serie di authority. Questo è un fatto che di per sé comporta tutta una serie di incertezze e anche di problemi, vedi Basilea 3, sul quale magari vorremmo tornare. Certo però che la politica dei singoli stati, ma soprattutto dell'Europa, dovrebbe riappropriarsi della capacità di governare il fatto economico. Fino a questo non avviene, è chiaro che avremo sempre una situazione di grande incertezza, anche perché non ci si può affidare alle varie authorities per definire i percorsi strategici della nostra economia nel futuro, cosa che invece è stata fatta fino adesso, no? Perché ormai l'economia viene, ormai appena c'è un problema economico lo si affida a un'authority, che di per sé secondo me è un fatto abbastanza limitativo. Quindi speriamo che si chiariscano molto le situazioni politiche, insomma. Un'ultima domanda: quando è che le banche, quindi anche quelle che lei presiede, quelle straniere, torneranno a dare soldi alle imprese e ai cittadini? Ma guardi, continuano a dare quattrini. Oltretutto devo dire che nel 2011, fino a metà 2012, le banche straniere in Italia hanno avuto un tasso di erogazione dei crediti superiore alle banche italiane. Quindi non è vero che non danno quattrini. Certo, naturalmente, è sempre la solita regola, le banche danno quattrini nella misura in cui hanno una relativa certezza che questi quattrini vengano rimborsati. Ma l'appoggio al sistema privato italiano, quello sano, rimane ed è ancora molto forte. Un'ultima domanda, Rosa. La Grecia, a mio avviso, ha avuto la sfortuna di fare da cavia per tutto il resto d'Europa, no? Proprio come le cavie... di cui tanti... Perché gli esperimenti del Fondo Monetario e della Bundesbank, da apprendisti stregoni, questo è un mio giudizio, si sono scaricati sulla Grecia, e adesso che abbiamo capito che la stiamo facendo morire nemmeno tanto lentamente di fame, forse qualche correzione è in atto, perché quando io vedo che poi lo stesso Fondo Monetario dice che nel 2020 il debito greco, dopo tutta la cura da cavallo che abbiamo fatto, non sarà più del 120%, ma sarà salito addirittura al 190%, vuol dire che stiamo ammazzando il malato. Certo. Questa è la mia idea. Vorrei sapere la sua, e vorrei sapere se a questo punto lei non respira, cioè, non, anche, perché voi banche siete molto più pragmatiche e realistiche, perché se vi muore l'ammalato morite anche voi, no? Non c'è dubbio, questo ecco. Ha detto una cosa che può sembrare ovvia ma è sacrosanta, cioè le banche hanno interesse di fare credito e di fare buon credito, perché se no muoiono anche le banche. Allora qui il problema fondamentale... Sa com'è, c'è chi dice di tenerti in vita finché puoi pagare, ecco. Vabbè, comunque andiamo avanti. Comunque è chiaro che qui bisogna affrontare il problema della crescita, cioè non c'è dubbio che tagliando solo il debito non si arriva da nessuna parte, bisogna innescare un movimento che consenta, perché la Grecia è prevista al centro, perché la Grecia non ha economia e quindi non riuscirà neanche a farla crescere, ma questo è un problema che riguarda anche l'Italia, è un problema che riguarderà anche la Francia. E qui, per esempio, torniamo al problema fondamentale, naturalmente, delle agenzie. Torniamo al problema fondamentale di Basilea 3, queste norme straordinarie che si sono inventate, che sono norme naturalmente procicliche, che bloccano la capacità delle banche di erogare credito e quindi bloccano la capacità dei paesi di crescere. Oltretutto, naturalmente, siccome poi gli Stati Uniti invece Basilea 3 se ne infischiano e non l'adotteranno, succederà che gli Stati Uniti avranno un sistema bancario con una capacità di erogare credito ben più elevato e una capacità di ripresa dell'economia. Non solo, ma naturalmente siccome quelle banche poi presenteranno una redditività superiore, ci sarà, a mio modo di vedere, spero di sbagliarmi, guardi, un trasferimento di capitale e di interesse dalle banche europee alle banche americane. Quindi, allora me lo dica una volta per tutte che chiudiamo. Il malato lo ammazziamo davvero. Ecco, quindi la ricetta del Fondo Monetario e della Bundesbank è una ricetta miope? A mio modo di vedere è assolutamente miope, bisogna integrare tutta questa serie di norme di restrittive e di errori con una capacità di far crescere questi paesi, perché se no, così andando, non solo morirà la Grecia e l'Italia, ma alla fine morirà anche la Germania. Vabbè, sì, e in questo caso non si può dire mal comune mezzo gaudio né mors tua vita mea, perché a questo punto noi non ci saremo più come sistema produttivo. In realtà la situazione si bloccherà molto prima, perché già la Germania sta vedendo gli effetti di questa terapia assurda che sta imponendo. Alcuni ci chiedono: ma come si fa a fare rigore e anche crescita? Beh, uno Stato non lo può fare da solo, però si chiamano euro bond oppure almeno project bond, cioè obbligazioni, titoli di Stato di carattere europeo, debito europeo, che ogni paese può utilizzare se fa i compiti a casa, se mantiene il rigore, o perlomeno finanziamo i progetti infrastrutturali a livello europeo, rimettiamo in circolo un po' di soldi, un po' di occupazione, ma porca miseria, servirà anche all'Europa essere più competitiva con le autostrade, le ferrovie, le reti digitali, o no? Non sono soldi che diamo per pagare la busta paga della pubblica amministrazione, non sono spese correnti. Qualunque imprenditore sa, lo dico a chi scrive, che esiste un debito buono e un debito cattivo. Il debito cattivo è quello che fai per le spese correnti, il debito buono è quello che fai per gli investimenti. Ma qualcuno andasse a spiegarglielo anche in Germania. Vabbè, grazie Guido Rosa. Dicevamo che la Grecia è stata la cavia. In realtà c'è stata una cavia precedente alla Grecia delle tecniche, delle terapie del Fondo Monetario Internazionale, si chiama Argentina. Questo ha portato l'Argentina al crack più devastante della storia per ora dell'economia moderna nel 2001. L'Argentina poi ha fatto quello che sta facendo la Grecia, cioè ha ripagato solo una parte, un terzo del suo debito, e ha ripreso a crescere, si è sganciata dal rapporto col dollaro, col peso, ha ripreso a crescere. Peccato che, notizia di oggi, sia di nuovo a rischio fallimento. 17:48 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa tra pochissimo, comunque sono giornate, lo dico con una valutazione in totale autonomia e anche giornalistica, giornate in cui la borsa si può anche restringere, intesa come spazio, perché grandi spunti non ce ne sono. L'America più 0,12, Parigi più 0,37, Francoforte più 0,15, Milano meno 0,17, male le banche, ma soprattutto il Banco Popolare, meno 4%, bene Pirelli più 2,20%, Autogrill più 2%. Prima però l'Argentina, oggi nuovo capitolo di un allarme che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa, perché l'agenzia di rating, una di quelle che danno il voto al debito dei paesi, Fitch, ha declassato di 5, dicesi 5 livelli, il debito argentino da B a doppia C e ritiene probabile un fallimento, un default sui pagamenti dello Stato argentino. Fatemi fare però un appello prima, continuate a scrivere, ed è una cosa molto bella, per la storia che abbiamo raccontato in apertura al posto delle storie di mala utilizzazione dei fondi italiani, la storia di Isabella Viola. Non esiste, che io sappia, un modo per versare soldi, stanno arrivando messaggi da tutta Italia, questa mamma di quattro bambini che è morta mentre era in metropolitana per un malore, che non si era curata perché doveva lavorare, svegliarsi alle 4 di mattina, spararsi 12 ore di lavoro come migliaia, anzi centinaia di migliaia di persone in questo paese, e che è morta in metropolitana, e su cui è nata una colletta spontanea e volontaria nel quartiere a Roma. Dicevo a Trovaianica, non c'è un numero a cui mandare, a cui versare questi soldi, per cui se qualcuno di Trovaianica che conosce questa vicenda vuole scriverci, se è possibile donare da qualche parte, qualche familiare di Isabella Viola, noi da tramite volentieri lo facciamo, perché no, qualche esempio positivo più che notizie positive da qui arrivano, dalla solidarietà e sensibilità della gente comune. Io direi gente normale, di che quegli altri, quelli che raccontiamo ogni giorno, possiamo anche iniziare a chiamarli gente anormale. Vittorio Darin, Roberto Darin, buonasera. Buonasera a voi. Allora Roberto, tu sei stato per anni corrispondente in Argentina, hai raccontato tutta la fase, sia il crack, il default in Argentina, e poi invece la rinascita. Noi proprio in questi anni dicevamo, guarda l'Argentina, che cosa ha fatto dal 2003 al 2007, è cresciuta dell'8, del 9%, quest'anno comunque farà un 2-3%, ma qua sta per saltare per aria. Perché? Solo perché un tribunale a New York ha detto che deve restituire il prossimo 15 dicembre 1.300.000.000 di dollari a un paio di fondi speculativi americani? Forse anche perché l'Argentina è condannata a scrivere nuove pagine di finanza internazionale a livello mondiale, così come nel 2001 ha saputo conclamare il fallimento o il superamento del Washington Consensus, delle regole macroeconomiche che non prevedevano un'attenzione anche alle variabili sociali. Ricordiamo le regole del Fondo Monetario Internazionale, che diceva taglia, taglia, tasse, taglia, tasse, taglia, e nel frattempo poi questi qua morivano di fame. E quindi lì si è avuta piena coscienza del fatto che quel sistema lì, così com'era, non poteva più funzionare. Naturalmente non doveva essere buttato via il bambino con l'acqua sporca, doveva essere certo modificato l'assetto delle regole, ovvero tenere buone le regole sull'inflazione, sul deficit, sul debito, ma al tempo stesso sapere che un paese non poteva morire di fame, non potevano esserci il 55% di disoccupati per il rispetto di queste regole. Quindi dovevano essere inserite anche delle variabili che tenessero conto della qualità della vita delle persone, che quindi la società nel suo insieme dovesse stare insieme, la solidarietà come unico collante sociale dovesse prevedere che questo paese dovesse funzionare. Ecco, lì c'è stata una svolta che il presidente di allora, dopo il default, Néstor Kirchner, ha saputo imprimere, tanto che questo paese, come dicevi tu Sebastiano poco fa, è cresciuto a ritmi cinesi per tanti anni, 8-9% di PIL. Spieghiamola tutta, perché l'Argentina ha potuto fare una cosa che la Grecia non può fare, nel senso che la Grecia ha l'euro e non può svalutare l'euro, perché l'euro è uno. L'Argentina invece, dopo il fallimento del 2001, ha svalutato di molto il suo peso, per cui per gli argentini per anni, per un paio d'anni è stato difficilissimo comprare, era carissimo comprare tutto quello che arrivava dall'estero, e bloccato anche i conti correnti, ricorderete, Corralito si chiamava, se non ricordo male, una cosa del genere. Però svalutando la sua valuta è riuscita a esportare molto, non solo materie prime alimentari come la carne, ma anche altro, e da lì è nata questa crescita. Cioè, non facendo quello che ha detto il Fondo Monetario Internazionale, è riuscita a tirarsi fuori dalle pastoie con un'estrema difficoltà, e chiaramente però dovendo anche non pagare i suoi debiti e quindi con problemi anche sul mercato internazionale. Perché è rallentato? Cioè, era drogata questa crescita o è successo qualcos'altro? Allora, è tutto giusto quello che hai detto. Va specificato che il Fondo Monetario Internazionale a un certo punto, con Anna Kruger, direttrice del Fondo Monetario, nel 2003 ha detto: con l'Argentina abbiamo sbagliato tutto noi. Oh. Quindi, come dire, lì ci fu un momento. Solo che adesso lo rifanno con la Grecia, perché sembra lo scorpione di Esopo, è nel loro istinto. Ora, cosa è successo, mi stai chiedendo? È successo che in effetti dopo 10 anni di crescita consecutiva il meccanismo non poteva perpetuarsi in eterno, quindi anche loro hanno commesso degli errori di politica economica. C'è un'inflazione del 30%, c'è un blocco delle importazioni che non ha favorito l'arrivo di nuovi investimenti stranieri in Argentina, quindi degli errori sono stati commessi. Però io vorrei, se tu sei d'accordo, Sebastiano, credo che agli ascoltatori interessi capire questa cosa del default che si profila nelle prossime settimane. Assolutamente. Allora, siccome è importante, perché ci sono A, molti imprenditori che hanno anche dei crediti in Argentina, e B, ci sono ancora decine di migliaia di risparmiatori italiani che speravano di poter tornare a vedere qualcosa, non hanno visto nulla, dobbiamo capire che cosa succederà a queste persone. Siccome ho 30 secondi e neanche Nembo Kid ce la fa in 30 secondi, mando il GR e poi torniamo sull'Argentina, poi la borsa e poi l'Ilva a Taranto, e visto che molti di voi lo richiedono, leggerò di nuovo anche nel finale la storia di Isabella Viola, che è una storia non nella sua fine, perché ci mancherebbe, ma nella sua quotidianità, una storia di moltissimi italiani e italiane che purtroppo poche volte viene raccontata. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vorrei concludere l'approfondimento sull'Argentina, perché al di là della notizia di oggi del declassamento vicinissimo al livello di default, da parte di fallimento, quindi da parte di un'agenzia di rating che si chiama Fitch, una delle tre, è chiaramente non sta in piedi dire che l'Argentina fallisce perché deve ridare 1,3 miliardi. 1,3 miliardi è una cifra grossa, ma per uno Stato è poco. Deve darli perché un giudice a New York ha stabilito che ha dato ragione a due fondi speculativi che non avevano accettato la proposta di rimborso effettuata a suo tempo, proposta molto molto sconveniente, ne sanno qualcosa le migliaia di famiglie italiane che avevano obbligazioni argentine. Però, Roberto Darin, allora, l'Argentina fallisce nel 2001 per colpa, io non ho nessun problema a dirlo, delle ricette che le aveva dato il Fondo Monetario Internazionale, che sono le stesse ricette che assieme alla Bundesbank stiamo applicando in Grecia. Fallisce perché se tu continui a tagliare, aumentare le tasse, il PIL sprofonda, la gente non consuma, il PIL continua a calare, il tuo debito in proporzione continua a aumentare e a un certo momento non ci stai più dentro. Tra l'altro li avevano anche obbligati a agganciare la valuta locale e il peso al dollaro, quindi una follia totale. Dopo che i Chicago Boys, e Chicago in questo caso è una città, dopo che i Chicago Boys avevano sbagliato ogni previsione, hanno anche ammesso al Fondo Monetario che avevano sbagliato. L'Argentina cosa fa? Svaluta, ma svaluta non come facciamo fare alla Grecia, obbligando a dimezzare il costo del lavoro e i salari, svaluta veramente, ossia lei poteva farlo, il peso svaluta nei confronti delle altre monete e così si becca un po' di inflazione. Per un po' gli argentini non possono comprare beni e merci, o meglio sono carissimi, i beni, le merci, i servizi che arrivano dall'estero, però torna a esportare e inizia a crescere dal 2003 in poi con un tasso dell'8-9%. Domanda, nel frattempo ha fatto anche i compiti a casa l'Argentina? Sì, l'Argentina ha fatto i compiti a casa e questo è il bello. L'Argentina è cresciuta a tassi, il tasso di crescita del PIL è stato sostenuto per molti anni e ha attuato delle politiche economiche che hanno funzionato. Naturalmente sono stati commessi anche degli errori, c'è un tasso di inflazione molto alto, vicino al 25%, hanno bloccato le importazioni e quindi hanno penalizzato per certi versi l'arrivo di investimenti stranieri, quindi hanno commesso anche degli errori, questo sempre succede. Però sostanzialmente in termini di default hanno, con le offerte che hanno proposto ai risparmiatori detentori di Tango Bonds, hanno saputo in qualche modo rimediare, certamente meglio di quanto sia accaduto, è andata meglio a chi aveva Tango Bond, a chi invece deteneva obbligazioni, titoli di Parmalat, di Cirio o di altri. Questo va specificato. Ad altri è andata molto peggio. Ora però paradossalmente rischia di saltare tutto il meccanismo e si rischia di ritornare al 2001. La maggior parte degli italiani, 400.000 italiani, hanno aderito alle offerte che sono state fatte dal governo argentino. Ne sono rimasti fuori 40 o 50.000. Ora però, se questo pasticcio dovesse andare avanti, allora che succederebbe? Succederebbe che si ritornerebbe al punto zero e senza più avere idee chiare, e soprattutto l'Argentina cadrebbe un'altra volta in un default e renderebbe, a parte che in questo momento la comunità internazionale finanziaria l'ultima cosa di cui ha bisogno è un altro default, prima questo mi sembra che tutti siamo d'accordo, ma il peggio è che si pregiudicherebbe anche la ristrutturazione dei debiti di chiunque altro, perché se persino un paese che ha fatto i compiti a casa, quale l'Argentina, un paese che ha avuto oltretutto anche la fortuna di vedere i prezzi delle materie prime alimentari crescere, un'altra fortuna che non tutti possono avere, alla fine viene penalizzato da un giudice americano, che succede allora? Di cosa stiamo parlando? Allora vuol dire che non si potrà mai ristrutturare un errore c'è stato, il default parte. Certo, ho capito cosa dici tu, cioè attenzione che se basta un giudice in America e non in Danimarca per penalizzare, per bloccare un intero sistema, chi si fida più, io vado ancora più brutale di te, di quello che stiamo facendo con la Grecia? Perché se domani si sveglia qualcuno, ora i casi erano un po' diversi, però è chiaro, non possiamo parlare adesso e forse mai, che c'è un problema di vuoto nel diritto internazionale, perché bloccare un intero paese perché un giudice a New York dà ragione a due fondi speculativi, il giudice avrà ragione, per carità, però non si può neanche per un giudice americano bloccare quello che è il risanamento di un paese e dei suoi milioni di abitanti, visto che, come tu ricordavi, i compiti, al di là di qualche errore sull'inflazione, ma chi non ha fatto errori in questi anni, l'Argentina li ha fatti, non si può dire che sia uno stato insolvente in senso proprio, lo diventerebbe perché se poi l'agenzia di rating le abbassano il voto e va sul default, a quel punto blocchi tutto, e questo la dice lunga sulla fragilità dei sistemi e su come ci sono anche dei punti da chiarire finché non si fa un accordo internazionale su temi come questi, secondo me non se ne uscirà mai. Comunque grazie Roberto Darin, chiarissimo ragionamento, non sappiamo ancora cosa capiterà, il rischio è che si blocchi tutto, anche i pagamenti che l'Argentina sta continuando a fare, seppur molto svantaggiosi, ma li sta facendo ai 400.000, tra l'altro, italiani che, mal consigliati dalle banche, comprarono le obbligazioni argentine. Grazie Roberto Darin, la borsa con un po' di ritardo. Borsa oggi piatta, piattina, meno 0,17 Milano, più 0,15 Francoforte, più 0,37 Parigi e invariata Londra, euro a 1,2925, bene Pirelli più 2,20, Autogrill più 2, Tod's più 1,5, Telecom più 1,5, Popolare Milano più 1,20, Mediolanum più 1,20, male le banche. Banco Popolare meno 4%, Monte dei Paschi meno 2,20, Unicredit meno 1,70 come Azimut, Intesa San Paolo meno 0,80, negativa anche Fiat Industrial di un 2%. E allora come sempre le borse le facciamo con Radio Cori Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Paolo, come mai con spread in calo, buona asta dei titoli di Stato italiani, molto buona, e l'accordo sulla Grecia dell'altro ieri, oggi le banche sono penalizzate? Beh, diciamo che soprattutto le due peggiori, cioè il Banco Popolare e MPS, hanno due notizie specifiche. Per quanto riguarda il Banco Popolare, che è stata la peggiore come segnalavi tu, ieri sera Moody's ha messo sotto osservazione i rating per un possibile taglio del giudizio sul Banco Popolare, quindi la reazione del mercato oggi è stata decisamente negativa. E più complesso il discorso del Monte dei Paschi di Siena, questa mattina è arrivata la notizia che il CDA ha dato via libera all'emissione dei cosiddetti monti bond, quindi i nuovi titoli che saranno sottoscritti dal governo e che per MPS rifinanzieranno anche i tre monti bond, oltre a un'emissione aggiuntiva di debito, e la cifra complessiva è salita di 500 milioni rispetto a quanto annunciato in precedenza per far fronte a possibili perdite su operazioni strutturate fatte dall'istituto. Questa è una sorpresa che ovviamente è stata accolta negativamente dal mercato, che ha punito il titolo con un calo del 2,18%. Ancora per quello che riguarda Fiat Industrial, meno 2? Non c'è nessuna notizia particolare, il titolo Fiat Industrial oggi è stato il peggiore proprio del comparto industriale, era salito, ricordiamo, dopo il via libera la fusione con CNH, quindi non si segnala nessuna notizia. Invece notizie ci sono sia su Pirelli che su Eni, più 0,60%, e anche Telecom, più 1,41%. Sì, per quanto riguarda Pirelli il titolo rimane sotto i riflettori, soprattutto per quanto riguarda il riassetto e dei piani alti della catena di controllo. Oggi il titolo Camfin, che era stato premiato di recente, ha chiuso in calo e gli acquisti si sono concentrati proprio sulla bicocca. Naturalmente sono in corso le trattative che potrebbero appunto tradursi in un accorciamento della catena di controllo, il titolo rimane sotto i riflettori. Per quanto riguarda l'Eni c'è stata una promozione da parte di Morgan Stanley, che apprezza la redditività del titolo e la sostenibilità del business, anche se molti osservatori oggi hanno criticato la vendita di una parte della quota detenuta nella portoghese Galp, che secondo gli analisti è stata conclusa a un prezzo troppo basso che non valorizza giustamente la società portoghese. Per quanto riguarda Telecom Italia, il titolo ha rialzato in parte la testa dopo lo scivolone di ieri grazie alle risposte del presidente esecutivo Franco Bernabè proprio ai dubbi che ieri avevano penalizzato il titolo. Bernabè ha detto che il CDA del 6 dicembre deciderà, cioè saranno prese decisioni sui dossier aperti a partire dalla vendita di Telecom Italia e Media e dalle possibili altre opzioni sul tavolo, mentre ieri si temeva, in base a alcuni rapporti di stampa, che la società potesse finire in stallo e quindi non riuscisse a decidere sui dossier aperti. Bernabè ha assicurato che così non sarà e quindi oggi il mercato ha apprezzato il titolo. Allora, migliori e peggiori, Movimax più 7,66, Montefibre più 6,31, Antichi Pellettieri più 4,80. Fronte opposto, Unione Alberghi Italiani meno 18,70 e Sintesi meno 5,60%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori, sulle 24 ore. Rispondo a un ascoltatore che dice: la colpa è sempre degli altri, i cattivi americani, i cattivi tedeschi, ma basta, prendersela con loro. No, guardi. La colpa, nel caso specifico dell'Argentina, era, a mio avviso, della ricetta del Fondo Monetario, che è ben orientato dal mondo anglosassone e da certe ricette dei Boys Chicago o Chicago Boys. Detto ciò, io le faccio solo notare una cosa. Chi sta guadagnando da questa crisi? La Grecia no, la Spagna no, l'Italia no, la Francia nemmeno. In Europa c'è un paese che ha un vantaggio enorme da questa crisi d'attacco dei debiti sovrani ed è la Germania, riesce a rifinanziare il suo debito a tasso negativo e ha un euro tutto sommato meno forte del marco e riesce a prestare soldi alle sue imprese a tassi da 3-4 punti percentuali più bassi dei nostri. Siamo o non siamo una casa unica? Se no non ha senso la moneta unica. E l'altro paese sono gli Stati Uniti, che hanno potuto rimettere a posto le loro banche e anche parte dell'economia, contenendo il dollaro debole, stampando moneta, cioè facendo tutto quello che noi non vogliamo fare. Ora, a me sembra che l'unico vaso di coccio di questa crisi sia l'Europa dell'euro e la parte anche, diciamo, non tedesca. Non mi sembra che la crisi sia nata in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, in Italia o in Francia. Mi sembra che fosse la finanza anglosassone, ma forse ricordo male, ad aver un po' esagerato con le cartolarizzazioni, i derivati e i prodotti tossici. Ricordo così, ma evidentemente ricordo male. Minuti. Allora ci trasferiamo a Taranto, dove c'è da due giorni la nostra Raffaella Calandra. Buonasera Raffaella. Buonasera a te e ai nostri ascoltatori, Sebastiano. Di tutto avrei immaginato, tranne che di parlare, nel caso dell'Ilva, che già è un caso complicato, doloroso, da ogni punto di vista lo si prenda, che del maltempo. Invece oggi abbiamo avuto anche il disastro del tornado che si è abbattuto sulla città di Taranto, oltre che sulla Puglia, il maltempo. Qual è la situazione in questo momento? In questo momento c'è ancora un po' di vento, ma piove poco e fortunatamente, diciamo, almeno quella sensazione di pericolo che per tutta la mattina si è avvertita è passata, perché anche quando la tromba d'aria si è allontanata lasciando dietro di sé proprio delle immagini da campo di battaglia, non trovo altra espressione per descriverle, continuavano ad esserci raffiche di vento molto forti e quindi c'era ancora un clima molto di tensione in città. Questa mattina noi siamo arrivati molto presto all'Ilva, quando c'è stata la tromba d'aria, e in un certo senso l'ho anche vista perché mi trovavo al quartiere dei Tamburi, che è il quartiere proprio più vicino all'Ilva, e quando sono arrivata era piena emergenza perché stavano evacuando lo stabilimento con il rischio di esplosione. Questo era, diciamo, l'indicazione. Capirai bene che clima e che tensione ci fosse in quel momento all'Ilva, che appunto sembra non trovare pace dopo le bufere giudiziarie, dopo questo clima di sospensione che c'è in attesa delle decisioni di domani. Ecco, sembra quasi che la natura si sia accanita un po' su Taranto in questo momento, anche con la tromba d'aria di oggi. Ricostruire il quadro di che cosa è successo all'interno non è stato facile. Abbiamo capito che alla fine sono crollati due camini, è crollata la Torre del Faro, sono crollati anche nastri che erano all'interno, quindi pezzi di cemento, parliamo di cose estremamente pesanti, e da dentro l'Ilva il bilancio, diciamo, finale è di una ventina di feriti, a cui però va aggiunto il disperso, che era un operaio che si trovava sulla gru sul porto, quindi di fronte alle acciaierie, e la gru è stata scaraventata in mare, lo si sta ancora cercando. La stessa azienda ha parlato di danni gravi strutturali che ancora non vengono quantificati, perché c'è stato poi a ripetizione un blackout dei forni. Chiaramente, insomma, in una struttura del genere un problema di questo tipo non è qualcosa di facilmente risolvibile. A questo va aggiunto, sì. Ecco. Prego. Prego. No, va aggiunto? Sì. Dicevo, va aggiunto tutto quello che c'è stato fuori dall'Ilva, sì. Perché questa tromba d'aria ha distrutto veramente alberi, una stazione dell'autogrill, e ci sono stati anche dei morti per incidenti stradali dovuti proprio al maltempo. Allora, Raffaella, questo per quello che riguarda la situazione, che adesso non dico che sia in miglioramento, ma è almeno più calma. Sul fronte Ilva invece, in attesa dell'incontro di domani e del decreto che dovrebbe essere composto da due articoli, nel primo si dovrebbe affermare che per 24 mesi il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale esplica in ogni caso effetto e di conseguenza è autorizzata la prosecuzione dell'attività, salvo che sia riscontrata l'inosservanza anche ad una sola delle prescrizioni impartite dal provvedimento stesso. Nel secondo articolo il governo invece stabilirebbe che la responsabilità della conduzione degli impianti resterebbe imputabile esclusivamente all'impresa titolare. In attesa del decreto, tu hai raggiunto anche una persona particolare lì a Taranto, perché è nel quartiere Tamburi, quello più vicino all'Ilva, conosce bene sia gli abitanti che i lavoratori dell'Ilva. Sì, esatto, stamattina sono stata da Don Nino, che è il parroco storico da 40 anni ai Tamburi, e ci ha raccontato proprio questa sospensione che c'è tra gli abitanti, tra la disperazione nella prospettiva di perdere un lavoro, ma anche questo bivio drammatico della salute che con l'exploit dei tumori di quella zona è stato drammaticamente evidenziato. Sentiamo l'intervista. Stiamo facendo un corso di preparazione al matrimonio. Molti di loro sono riusciti a passare e ottenere il mutuo. Oggi sono preoccupati, senz'altro qualche sommossa ci sarà, perché non possono continuare a imperversare sul nostro territorio con questi atteggiamenti quasi menefreghisti. Perché già una ventina di anni fa abbiamo fatto diverse dimostrazioni sull'inquinamento. Non siamo stati ascoltati. Ha letto quelle intercettazioni in cui si dice due tumori in più? Una minchiata. Ridicolizzare o giocare sulla morte degli altri, questo è gravissimo. Qui, solo la mia parrocchia qui, assiste oltre 300 famiglie, con il pacco che viene dato, l'assistenza per le bollette della luce, per le bollette del gas, la bombola del gas. Noi siamo ancora a questo punto. Poi è inammissibile che una famiglia povera che vive con 280 euro al mese, debba pagare le medicine a 151 euro 5 fiali. Io per poter avere uno sconto l'ho presa nella Città del Vaticano. Io credo che un provvedimento dovrebbero farlo, cioè permettere alla gente che abita su Tamburi di non pagare le medicine o di pagarle con uno sconto. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto... Grazie a Raffaella Calandra in collegamento con noi da Taranto. In effetti anche quello che dice il parroco, insomma, vista la situazione particolare in quel quartiere di leucemie, forse e altre malattie, forse no, un'agevolazione, un aiuto anche sui medicinali, no? Si potrebbe anche fare, no? Però vorrei chiudere con Isabella Viola, perché me lo chiedete, lo rifaccio. La storia è una storia tristissima, non con un lieto fine, ma che dimostra che esiste anche un'altra Italia, lo dico senza retorica. Chi se la fosse persa, chi è Isabella Viola? Era una mamma di 4 figli, 34 anni, si svegliava ogni mattina alle 4, andava al lavoro, in via Non C'era Umbra, nel quartiere Appio Tuscolano, e faceva così tutti i giorni. Era uno di quei volti stanchi che tutti noi vediamo sui mezzi pubblici, quelli che vede la gente normale, non chi ha l'auto blu. Su. È morta di un malore, da sola, sotto la metropolitana, sulla banchina della stazione Termini, una domenica mattina. Ha lasciato 4 bambini, non si era curata perché doveva lavorare e doveva lavorare anche la domenica mattina. Che cosa è successo? È successo che gli abitanti del quartiere Tuscolano, e mi correggo, non Trovaianica dove abitava ma dove lavorava, nell'edicola accanto al bar hanno iniziato a raccogliere con una normalissima cassetta soldi, una colletta con scritto aiutiamo i figli di Isabella. In fila, nel corso dei giorni, si sono trovati giovani, impiegati, pensionati, e che davano gli spicci, che avevano nel portafoglio. Allora, a chi dice che, e pensa che questa sia retorica e populismo, l'invito non lo posso fare per radio perché non diciamo parolacce. A tutti gli altri invito invece a pensare che esiste anche questa Italia, e alla classe politica che così affannosamente sta cercando di ricollegarsi con un paese che non conosce forse più, invito a farsi un giro dove lavorava all'Appio Tuscolano, a vedere, e magari se ce la fanno, se è rimasto qualcosa dal vitalizio, a lasciare giù anche un po' di skei. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.